Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo con il sabato del villaggio. Lo capite subito, lo sentite subito dal nostro audio che siamo in esterna. Abbiamo fatto un po' di puntate in esterna qui al nostro sabato del villaggio, perché questo è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, i liberi consigli per il fine settimana. E allora, perché il fine settimana ad esempio non andare al mare? E perché non andare a Genova? Noi ci siamo al Salone Nautico di Genova, che poi è il salone più grande del Mediterraneo. Tante trasmissioni questa settimana sono state qui al 55esimo Salone Nautico di Genova e ci siamo anche noi con tutti i liberi consigli per il fine settimana. Io come sempre vi tengo compagnia, voi tenetemi compagnia. Due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @ Marta Cagnola, ma anche l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme qui da Genova. Torna nel nostro sabato del villaggio il gastronauta, anche in questa puntata. Questa volta con Davide Paolini parleremo di sprechi e andremo a fare un viaggio nelle Langhe. Poi sempre nella prima ora con Enrico Pagliarini le tecnologie, questa volta parliamo di OLED, sempre parole un po' difficili. Con Enrico Pagliarini scopriremo di cosa si tratta. Tanto cinema come sempre con tutte le novità in sala, ma prima iniziamo parlando appunto di mare. La TV e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili ricorsi dai cani, stanche parabole gabbiani, ed io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno era una scelta un po' obbligata, perché qui a Genova pioggia, freddo, freddino. Qualche istante fa stava venendo anche qualche raggio di sole, ma non abbiamo troppe speranze. Però si sta comunque bene qui al Salone Nautico. Parliamo di passioni sempre al sabato del villaggio, e quindi la passione per il mare. Io ho bisogno dei consigli di chi frequenta il mare più di me. Io sono un po' imbranata al mare, quindi ho subito un ospite in studio che... insomma, un campione del mondo, c'è anche scritto sulla giacca, campione del mondo di pesca sportiva, Antonello Salvi. Buongiorno Antonello. Buongiorno. Ha anche un sito che ho qui davanti a me, antonellosalvi.it, quindi per chiunque volesse sapere qualcosa in più di te lo trova anche online. Antonello, campione mondiale di pesca sportiva, di cosa si tratta? Ma principalmente diciamo che fin da piccolo ho avuto questa grande passione. Ci vuole, dopo tanta costanza, dedizione e credendoci sempre, ecco, sono arrivato diciamo a questo bellissimo traguardo e vincere diciamo il podio più alto. Le emozioni sono tante, perché si sta a contatto con la natura, il mare, il rumore del mare, le onde, le intemperie, insomma è uno sport unico, bello e affascinante. Come ci si può avvicinare a uno sport del genere? Lo sport, diciamo che basta pure avere una piccola imbarcazione, pure con dei ragazzini, ecco, pure da papà col figlio. Io ho cominciato così, cominciare per gioco, ecco, con la trainetta, i pesciolini piccoli. Poi man mano la passione ha preso il sopravvento e piano piano, insomma, siamo arrivati a prendere pesci sempre più grandi e a divertirci sempre di più. Mi piace molto perché nel tuo sito si parla subito di una cultura della pesca responsabile, quindi certo. È una cosa che fa parte della tua disciplina sportiva, il fatto che non sia una cosa indiscriminata ma assolutamente responsabile. Certo. È importante, sì. Questo. Diciamo che fare stragi di pesci assolutamente no, perché oltre che diciamo non è facile, però sono delle giornate che il pesce diciamo in attività mangia, la cosa più bella e più emozionante è anche dare la libertà a loro ed è una bellissima emozione. Che meraviglia, ma allora dacci qualche consiglio, dove si pesca meglio cosa? Dove che adesso dove andiamo? Perché io... Ma diciamo che la pesca va in base ai periodi, i pesci principalmente seguono l'acqua calda, quindi il pescatore o chi non bene o male frequenta molto il mare, basta in base ai periodi mettere l'esca al posto giusto in base alla profondità, quindi se è inverno peschiamo più profondi, se è estate peschiamo meno profondi, il pesce lo troveremo sempre diciamo dove ci sono queste correnti di acqua calda, sarà più facile diciamo trovarli, ecco, e prenderli. Poi come dico sempre, l'esca fa il pescatore, poi è ovvio che bella tutti questa abbiamo... l'esca fa il pescatore, sì. L'esca fa il pescatore, quindi ogni pescatore ha i suoi segreti, ha le sue esche, principalmente è così. Ah bella, abbiamo scoperto che il segreto del pescatore è la sua esca misteriosa. Tra l'altro tu accompagni anche chi vuole avvicinarsi a questo sport, chi vuole... quali sono le persone che si rivolgono a te per anche imparare? Per mia fortuna vengono tutte le parti, diciamo... In Calabria tu? Sì, sì, io tu sono lavori... in Calabria, però mi vengono tutte le parti, anche dal Kansas, molte le persone, Sì, Spagna, Portogallo, le persone più lontane dalla Russia, diciamo, non solo persone italiane, ecco. E tu cosa fai quando qualcuno arriva per la prima volta? Io non ho mai pescato. Arrivo e dico: Antonello, fammi pescare. Allora, ovviamente in base al periodo e le esigenze del pescatore, cerco un po' di capire un po' quello che vuol fare. Poi do dei consigli per cercarlo ovviamente di metterlo a suo agio e farlo divertire di più, facciamo un piccolo programmetto, si parte e affrontiamo la giornata, che poi consiste anche in un corso, si fanno dei nodi, si sta insieme, si discute, diciamo queste cose qua. Bello i nodi, mio padre ci ha sempre provato a insegnarmi ma niente, non c'è mai riuscito. Antonello, uno dei testimonial di questo salone nautico, una bella responsabilità, perché è anche una bella soddisfazione. Bello, perché dire, sono stati presi tanti sportivi che hanno a che fare col mare e che fanno da testimonial a questo salone, è una bella soddisfazione, Antonello. Certo, grande, per me è stata una bella cosa. Ne abbiamo un altro al telefono, abbiamo un altro testimonial, Ayrton Cozzolino. Ayrton, ci sei? Buon pomeriggio, mi senti? Eccolo qua. Anche tu un campione mondiale? Sì. Allora, però devo dire bene il tuo sport. Kite surf wave, è così? Sì, praticamente è una tavola da surf senza gli agganci. E quindi viene più difficile, quindi devi saltare la tecnica al vento. No, allora io... Una disciplina veramente nuova. Tipo, io vado col kite, però senza gli agganci. Allora, io stavo chiedendo ad Antonello cosa potrebbe fare per aiutarmi a imparare a fare pesca sportiva. A te non chiedo, perché sicuramente non potrei fare questo sport, ma neanche proprio nella mia immaginazione. Ma come ci si avvicina al kitesurfing wave? Beh, prima praticamente dovete fare tipo una lezione con l'istruttore, sono tipo 8 lezioni per riuscire ad andare con la tavola. E poi ovviamente quando siete fradici dipende da voi se volete fare con la surfino, che significa la tavola da surf senza gli agganci, quello che faccio io, o se no continuare a fare evoluzioni saltando, quelli che facciano, che fanno sempre. Ma è pericolosissimo, dai, detto tra noi, non ci ascolta nessuno, ma dai, è pericoloso, no? Tanta gente pensa che il kite sia pericoloso, per quello è uno sport che sta avvicinando tanto in Italia, il mondo in Europa anche è uno sport che sta diventando sempre più grosso, e quindi tanta gente pensa che è pericoloso, invece no, io quando l'ho provato era... non è facile, le prime volte non è difficile. Ma tu come hai iniziato? Io ho iniziato con mio padre, era nel 2006, a Capo Verde, l'isola dove vivo io. Che meraviglia, beh, insomma diciamo che il clima e il mare a Capo Verde consentono, sempre al caldo, insomma. Consentono. L'estate in Sardegna e l'inverno a Capo Verde. Ah, che bella vita, non mi dispiace, però non mi dispiace, Antonello, non è male come... Mi sa di sì, bello, mi sa sì. Che dobbiamo cambiare. Io doti fisiche per fare il kitesurf wave non le ho. Mi hanno detto che in questi giorni qui al Salone Nautico tutti ti chiedevano autografi, beh sei abbastanza riconoscibile per via dei dread, per via del tuo look, Ayrton, però hai un sacco di fan. L'abbiamo perso, ce l'abbiamo ancora, eccolo. Nel mondo del surf sì, sono un po' conosciuto, quindi sì. Straordinario. Bisogna prima sapere andare in surf per avvicinarsi al kitesurf wave? Tipo, sì, cioè non è che devi per forza fare surf, però ovviamente viene più semplice se vieni, se fai già surf, che lo scopo è quello. E dopo se fai kite, tipo hai iniziato la prima volta a fare kite, dopo dici di te cosa fare, insomma. Tipo il kite principale è quello con la, con una tavola freestyle con gli agganci, mentre fanno i salti, evoluzioni. Non è, non è che difficile. No, non è difficile. No, guarda, ho visto dei video, proprio non è difficile, Ayrton, è una follia, una cosa difficilissima, altro che. Ma tu sei un Allora, Ayrton, i prossimi impegni adesso, tu da che parte del mondo sei a che parte del mondo sei diretto? Perché so che oggi hai dei voli. Devo cambiare volo perché andare a girare un film importante in Mauritius, quindi devo partire prima, sennò non facciamo in tempo con le previsioni dell'onda. Ah certo, certo, perché sì, noi cerchiamo surfisti, cerchiamo sempre di seguire l'onda più grossa e l'onda più perfetta, quindi quando c'è un'allerta meteo che sono onde più grosse, ovviamente cambi il volo e cerchi di arrivare preciso per trovare le onde più belle. Straordinario, Ayrton, grazie per essere stato con noi. Allora, in bocca al lupo. Grazie. Come si dice? Grazie. Dite qualcosa in particolare? No, va bene, in bocca al lupo? Va bene, va bene. Diciamo, crepi lupo. Crepi. Grazie, Ayrton, per essere stato con noi. A presto. Grazie mille, abbracci, ciao. Che ciao. Meraviglia, questo ragazzino, giovanissimo, certe cose fa. Antonello, quanto comanda il mare quando hai a che fare col mare? Col mare non bisogna scherzare, perché contro madre natura dobbiamo guardarci soprattutto un po' le previsioni quando ci allontaniamo dalla costa, quindi bisogna stare, diciamo, attenti, almeno consultare un meteo, un minimo, ecco, perché non ci vuole niente, un po' di maltempo, vento, acqua, insomma. E è bello e affascinante, ma anche il suo perché, è quindi anche misterioso a volte, quindi ci vuole sempre un po' di calma, stare attenti, ecco. Beh, è giusto, mi piace. Bisogna anche rispettarlo. Ecco, mi piace, perché poi il fatto che sia pesca sportiva vuol dire che è uno sport, ma anche che c'è una certa etica, una certa disciplina, certo. come in ogni sport. Ma la parte più bella è quella, diciamo, è bella. Che meraviglia, no? Perché voi non lo vedete, Antonello, ma ha un'aria sognante, perché è innamorato del suo sport. Antonello, tu dove ti raggiungiamo? Dove in Calabria. Tu lavori? Sono in Calabria, dalla parte tirrenica, è un posto piccolo, bello, si chiama Belvedere, quindi già il nome stesso. Non può che essere bellissimo. Tutto l'anno si tutto può l'anno. Pescare? Soprattutto nel periodo, diciamo, invernale, c'è molto più pesce, il pesce è più in attività. Il tuo record personale invece 300 kg, un pesce di 300 kg. Oddio, 300 kg, sì. Cioè una nave. 10 ore, diciamo, di combattimento, un pesce forte, ecco, un tonno rosso, è un pesce di oltre 3 metri. Dove? Sempre nelle mie acque. Pensavo chissà no, acqua. Sempre nelle mie acque, sì. Ma che cosa incredibile. Però appunto lo ribadiamo, Antonello subito ha sottolineato il fatto che sia importante avere anche una cultura della pesca responsabile, e tutto ciò è molto molto bello. Quindi antonellosalvi.it è il tuo sito. Che meraviglia, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Invece i tuoi prossimi impegni, visto che comunque tu continui la tua attività di sportivo, sì, oltre sì. alla tua attività, diciamo, di insegnante. Più che altro adesso faremo insieme a collaborazione con Garmin un giro in Sardegna, faremo tutta la Sardegna e poi andrò a Minorca a fare uno stage, un corso a brevissimo là, un posto che sono stato già a Maiorca, Minorca no, però penso che sia fantastico come posto. Io devo dire che giriamo, siamo fortunati da questo. Prima Ayrton, poi tu, sì. mi state convincendo a darmi un po' le discipline marinare, perché qua come non è, andate in posti bellissimi. Sì, è vero. Davvero. Complimenti. Antonio, grazie. Ti veniamo a trovare a Belvedere, grazie. Allora, e così ci dai qualche lezione di Perfetto. Pesca sportiva. Ti aspetto. Grazie mille per essere a stato presto. Con noi Ciao qui a Radio 24, qui al Salone Nautico di Genova. Allora, tra qualche istante dobbiamo dare la linea alla viabilità, non per mare, ma per strada. Però so che c'è già Davide Paolini, così intanto lo saluto. Davide, ciao, ci sei? Buongiorno. Hai sentito qua. Anche tu parlare di questi posti meravigliosi? Cioè, sì, ho sentito. Che cosa straordinaria. Con invidia, con grande invidia. Una certa invidia. Davide, noi ci sentiamo tra qualche istante perché abbiamo tutti i consigli per chi sta viaggiando e poi i tuoi consigli, i consigli del gastronauta tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Eccoci qua con il sabato del villaggio, ancora in diretta dal Salone Nautico di Genova. Io ho già salutato il nostro Davide Paolini, che non ci crederà, ma ho trovato anche una canzone a tema per quanto riguarda quello che ci vuole raccontare intanto oggi. Eccola qua. Africa all'aeroporto di Milano, arrivo ai controlli con la boccia d'acqua in mano, ogni volta mi fanno buttare l'acqua, la butterei dentro il tubo e fanculo ai sensi di colpa. Ho idee per cambiare il mondo, ma per realizzarle non mi bastano i soldi sul conto. È come nel poker, svoltiamo solamente se ci arriva una buona mano, una ricetta da inventare. Allora, si intitola Dalla a me, e lo so che c'è un lieve doppio senso, ma è un pezzo serissimo, l'inno antispreco dei Rezzofonic, proprio perché non bisogna sprecare nulla, anzi valorizzare le risorse. Davide Paolini, eccoti qua. Sì, perché parleremo proprio di spesa consapevole o spesa sostenibile, perché per non sprecare, cioè è inutile cercare degli escamotage per recuperare quello che si è già sprecato, perché ormai è andato. Bisogna prevenire, e si previene con tante maniere, ma soprattutto con una spesa consapevole, cioè comprare il giusto e comprare ciò che non porta problemi al pianeta, che non porta problemi all'ambiente, che non porta problemi al mare. E per questo bisogna, appunto, per esempio il pesce, cercare la stagionalità del pesce, perché anche i pesci hanno una stagionalità. In Italia ci sono solamente 10 specie conosciute, in Italia ci sono 400 specie nei mari italiani, e ci sono dei pesci che costano veramente poco, che sono quelli che non sono in via di esaurimento invece come è stato il tonno per tanti anni. Ne cito alcuni: il suro, il sugarello, la spatola, l'ala lunga, la palamita. Sono molti di questi pesci che quando qualcuno se li sente citare dice: ma dove sono? Eppure ci sono, ma il vostro pescivendolo non li compra, perché voi non li chiedete e non li conoscete. Quindi questo è uno dei problemi importanti, ma così pure nella carne. Tutti chiedono il filetto, purtroppo il filetto è di una parte dell'animale, che è la parte che si chiama posteriore, tutti chiedono quei tagli che sono in quella parte lì e dimenticano che esiste un'altra parte, che è quello anteriore, dove ci sono il muscolo, il biancostato e tanti altri tagli con cui si fa anche un ottimo bollito. Infatti io stavo dicendo il biancostato, guarda, col clima che c'è oggi a Genova già un po' di voglia di bollito mi viene, perché non so, sì. Un filino già comincio a pregustare il bollito della domenica pranzo. Sì, quando comincia ad arrivare questo freddo, allora uno vuole una scodella di brodo con dentro magari tortellini, gli anolini, i ravioli, insomma, con qualcosa, oppure anche con il riso. Ebbene, comprando sempre gli stessi tagli, quelli più, appunto, più cari, il macellaio è costretto a non usare un'altra parte che deve buttare, e questo fa anche crescere il prezzo. E quindi secondo me questi due esempi che io ho portato sono molto importanti, perché non solo fanno parte di una spesa consapevole, ma fanno risparmiare, questo è il punto base, e non si arriva allo spreco, ma non della famiglia, non si arriva allo spreco del pescivendolo, del pescatore o del macellaio o del macellatore. Questa è una prima fase, perché di sprechi c'è quello del bidone, chiamiamolo così, dell'immondizia di casa, dove pare che ogni italiano butti 42 kg all'anno, ma c'è anche quello, diciamo, dei vari passaggi tra le materie prime all'origine, poi arrivare sul banco o il banco di vendita. Quindi questo è importantissimo, come è importante conservare diciamo pesce, carne, frutta e verdura, è importantissimo, ma anche qui ci sono delle regole. Non è che uno può tenere la carne 2 mesi in frigorifero o 1 anno in freezer, anche qui ci sono dei limiti ai quali bisogna stare molto ma molto attenti. Il pesce poi è delicatissimo, soprattutto il pesce crudo, attenzione, bisogna abbatterlo. Se non è abbattuto dal vostro pescivendolo, potete tenerlo a casa per 96 ore a meno 18 nel vostro freezer, perché altrimenti si può manifestare un bacchetto bianco che si chiama Anisakis, che può creare dei grossissimi problemi al vostro intestino, portando anche a degli interventi chirurgici. Quindi questo è importante. In questi giorni, oggi, domani e lunedì, a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, c'è Milano Golosa, dove ci sono tutti i corsi per imparare diciamo le cose che vi ho detto, e soprattutto anche per trovare queste merci che mancano di solito nelle bancarelle dei vostri venditori. Quindi attenzione, se siete voi stessi che state decidendo il destino del pianeta. Quando si è parlato molto di Expo, ecco, consapevole è una parola, un aggettivo che è girato molto, come pure sostenibile, però non sono semplicemente aggettivi astratti, sono delle realtà che poi si ripercuotono nella vita quotidiana di ognuno, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'alimentazione. Davide, passiamo agli itinerari, no? Perché io vorrei entrare già in atmosfera, perché ti ho preparato anche qui una canzone, sai che mi piace accoglierti. Passiamo agli itinerari, va bene? Non sono venuto per salutare, che io non lo conosco, tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare. Allora, non so Davide se ti piace Gian Maria Testa, però a me piace molto, tantissimo molto. E poi mi dà subito quest'aria di bellissimo, sì, profondo Piemonte. Siamo e subito di Asti. Sì, capostazione, grande cantautore, sì. Respiriamo già un po' di Langhe. Respiriamo Langhe e Monferrato, perché respiriamo del tartufo, quindi si sente già l'odore, è già cominciata la grande stagione, purtroppo ce n'è poco e costa tanto. Quindi credo che questa quest'anno sarà una brutta notizia per gli amanti, però l'anno scorso diciamo si era un po', era stata festa alla grande perché ce n'era tanto e costava poco. Però insomma gli appassionati sanno che il tartufo è forse il prodotto più caro che esista, quindi pronti a sostenere un bel investimento. Ma io vi porto, prima di tutto vi porto a Canelli, al San Marco, dove c'è Mariuccia che fa dei tagliarini addirittura di 40 tuorli, quindi proprio veramente una roba fantastica. Quindi poi il marito è il capo dei cavatori, di tartufo, per Carlo Ferrero. Ah, quindi lì sei sicuri sulla pasta e sei sicuri anche sul tartufo. Poi sempre vicino vi porto a Isola d'Asti, al Cascinale Nuovo, dove la famiglia Ferretto ha una cucina molto particolare, tra cui un piatto che è diventato famoso, mille foglie di lingua e foie gras, ci sono anche i ravioli di Seiras, c'è sempre il tartufo, e poi si può anche dormire, quindi è anche una locanda, perché alla sera quando si va per tartufo, insomma, si beve anche del Barolo o del Barbaresco, quindi tornare a casa è un po' dura, ma soprattutto perché c'è la polizia pronta con il palloncino. Poi vi porto San giustamente Stefano, però così ce la godiamo un po' di più, giusto? Mi fa molto piacere, altrimenti c'è sempre il rischio, mi fermano o non mi fermano. A San Stefano Belbo, poi paese Cesare Paesi, c'è di Pavese, c'è il Relè San Maurizio, dentro questo ex monastero straordinario con un giardino incredibile c'è il ristorante da Guido da Costigliole, qui c'è la famiglia, una della famiglia Alciati, c'è Andrea dove si mangiano dei plin al sugo d'arrosto con magari una grattugiata sopra di tartufo straordinaria, ma anche la carne cruda e il vitello tonnato, quindi si può annaffiare tutto con il tartufo. E poi ancora a Alba, che è la capitale, Piazza Duomo, c'è uno dei grandi della cucina italiana, Enrico Crippa, a Piazza Duomo, quindi si chiama Piazza Duomo il ristorante. Qui c'è una cucina molto particolare, molto personale, considerato lo zen tra i tartufi, dei tartufi, quindi lo zen dei ristoratori. Qui è un mangiare un po' particolare, non è un mangiare tradizionale, anche se ci sono i plin e ci sono altri piatti, c'è diciamo una cucina di grande fantasia, dove anche qui il tartufo scorre, come si dice, come in un fiume. E quindi andiamo anche a Serralunga d'Alba, quindi le abbiamo girate tutte, sia il Langhe e il Monferrato, da Guido nella Villa Reale, che ci sono i piatti classici appunto di Guido Alciati, di Guido Lidia Alciati, che hanno lasciato ai figli vitello tonnato, agnolotti e finanziera. Qui c'è una grande cantina, quindi ci si può, nell'azienda di Fontana Fredda, un posto anche da visitare con una grandissima cantina in cui ci si può sbizzarrire, perché tartufo chiama i grandi vini del Piemonte, Dolcetto, Barbaresco e Barolo, quindi credo che in questa regione, veramente in questo territorio, ci sia il summa della gastronomia italiana. Hai citato la cantina di Fontana Fredda, nella quale io sono stata, pensa che ci sono stata con Gian Maria Testa la prima volta che ci sono stata, davvero. Allora torno alla canzone iniziale con questa, e ora veramente è un incanto, perché dentro c'è perfino un teatro, quindi c'è un relè, c'è un teatro, c'è la vecchia, diciamo la vecchia casa padronale, è stata della Bella Rosina, insomma questa è stata donata dal re alla Bella Rosina, è un fatto storico italiano. Quindi dal punto di vista, così anche se uno vuole, dal punto di vista culturale, le Langhe offrono moltissimo, perché offrono musei, a San Stefano Belbo offrono appunto questa visita della villa della Bella Rosina e poi veramente tantissimi altri posti. Mi permetti di citare un piatto che io mi sono inventato sul tartufo, che è diventato abbastanza noto. Ah, che meraviglia! Si chiama il boccone del gastronauta. E una rivoluzione. Conta un po'. È una fetta di pane casereccio messo in padella, leggermente riscaldato, sopra un goccetto d'olio, sotto un goccetto d'olio, poi invece della Nutella o di qualche altra cosa spalmata si spalmano tante fette di tartufo, veramente lo si copre completamente e si mette in bocca con due chicchi di sale grosso e si mangia. È il miglior modo per mangiare il tartufo, il boccone del gastronauta. Davide, facciamo questo investimento, non badiamo a spese, ogni tanto una soddisfazione, sì, un dobbiamo prendercela. È dai. Un investimento, ma credimi, vale la pena di farlo, perché così si gusta il vero tartufo, non in mezzo al riso, ai tagliolini. Sì, è buono, però viene un po', secondo me, soffocato. In questa maniera invece lo senti in bocca, profumo e sapore. Non dimentichiamo che il tartufo bianco d'Alba e soprattutto è profumo, quindi non dimentichiamone. Molte volte uno dice ma poi in bocca mi rimane poco, no, ma bisogna aspirare, io dico sniffare, ma sniffare tartufo. Straordinario, Davide, io voto sì, sai che il tartufo divide tra chi lo ama e chi non lo ama, io tantissimo, quindi organizziamoci questa gita nei, tra l'altro, patrimonio dell'UNESCO, Langhe-Ruhr e Monferrato, sì, organizziamo questa gita e non badiamo spese, una soddisfazione ce la prendiamo quest'anno col tartufo, dai, presto Davide. Magari con Testa che ci accompagna con le luci. Ecco, è straordinario, Gian Maria Testa, straordinario, a presto Davide, alla prossima settimana. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, sempre qui, non dalle Langhe, ma dal Salone Nautico di Genova. C'è ancora un po' di cielo nuvoloso, ma non piove. Noi ci ritroviamo tra poco per parlare di tutt'altro argomento, di tecnologie, ancora tra poco al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato del villaggio in diretta dal Salone Nautico di Genova. Ancora il numero per i vostri sms 349-238-6666. Invece se avete davanti a voi il vostro account di Twitter, il mio è @MartaCagnola e l'hashtag è cancelletto ISDV. Infatti c'è Paolo Fornasari che subito commenta l'argomento di cui abbiamo parlato con Davide Paolini. Ci piace molto il tartufo, peccato ce ne sia poco quest'anno. Sì, ne mangeremo poco, dovremo spendere molto, ma lo dicevo, una soddisfazione, dai, concediamoci una soddisfazione. E i nostri liberi consigli per il fine settimana questa volta passano anche dalla fotografia. Vi devo segnalare questo incontro, questo evento, adesso vi spiego perché. Da oggi fino al 1° novembre la Biennale Fotoindustria, l'unico festival della fotografia industriale al mondo, 14 mostre dedicate alla fotografia industriale, dal lavoro, del lavoro e delle imprese. Ci sono degli eventi che vi voglio segnalare. Domani alle 11 il rapporto dei fotografi con il mondo del lavoro, e alle 18.30 quale carriera per un giovane fotografo nella società attuale. Questi eventi al Must Auditorium di Via Speranza 42 a Bologna. Ma perché vi segnalo tutto questo? Anche perché con Radio 24 ci sarà la possibilità di visitare Fotoindustria con una guida d'eccezione, cioè Gianluca Nicoletti. Per scoprire come aggiudicarsi gli ingressi insieme appunto a Gianluca Nicoletti, l'appuntamento è con la puntata di Melog di martedì alle 12.15, quindi martedì ascoltatevi Melog, e Gianluca Nicoletti vi segnalerà come partecipare a queste visite della Fotoindustria di Bologna insieme a lui. Io fossi in voi ci andrei, perché secondo me ci si diverte molto con Gianluca Nicoletti, come ci si divertirebbe molto con Enrico Pagliarini, che però non è a Bologna ma è qui a Genova con me. Sì, anche perché Enrico, di fotografia non è che ci capisca molto. Aspetta però Enrico, io come sempre ti introduco con una canzone a tema, però questa volta mi sono superata. Ah sì? Mi sono superata. Siamo a Genova? Sì? Siamo a Genova, sì. Siamo al Salone Nautico? Sì. Allora, c'è la canzone sul Salone Nautico? No, no. Meglio. Okay. Senti qua. Sentiamo. Guardavi Love Boat? No, allora so che è esistito questo telefilm. Ma dai, perché era bellissimo. Sentivo parlare, mai visto. Cioè, il sogno della mia vita. Ma su Mediaset, sì, mi tanto, sa. Sì, tanto. Sì. Per tanti anni il sogno della mia vita si era Fininvest, essere no? Invitata a cena al tavolo del capitano Stubing. Ma pensa un po'. Perché quella era massimo. Non l'ho mai visto, però la canzone non mi è nuova. Little Tony, mare, profumo di mare. Love Boat. Cioè, abbiamo visto delle navone da crociera qui oggi a Genova, però sì. Con te non parliamo di navi da crociera, parliamo di televisione. Però, no, però allora, di devi sapere che su molte navi, su più che navi, allora, a parte le navi da crociera, però su molti yacht, navi da diporto, insomma navi che possiamo vedere anche qui al Salone Nautico di Genova, il grande televisore fa parte della dotazione ormai standard, cioè nei grandi salotti di queste barche ci sono dei televisori meravigliosi, quindi ormai è una parte importante della barca. Prima però di parlare di TV, visto che parliamo spesso di cose che si vedono in televisione o sul televisore, parliamo però anche di radio. Perché molti dei nostri ascoltatori ci stanno ascoltando probabilmente dall'automobile, alcuni anche a casa. Io invito tutti i nostri ascoltatori a dotare quasi tutte le stanze della propria casa di radio con cui possono sintonizzare Radio 24. Cioè una radio in ogni stanza? Sì, è una bella cosa. Sì, poi magari una la sera mentre passa il tempo, che ne so. Ma sai che ho la radio nella doccia? È una buona idea. Proprio dentro la doccia? Sì. Quindi è una radio. Sì, è una radio impermeabile con le ventosine, infatti. E ce l'ho appesa nella doccia. È una bella idea. Sì. È una bella idea. Insomma, quindi facciamo questo invito. Insomma, una radio può essere anche un buon regalo per il prossimo Natale. È un bel oggetto. Ci sono delle radio molto belle, un po' vintage, come si dice in questo periodo, con 50 euro, se esageriamo anche un centinaio di euro, poi se vogliamo ci sono anche delle radio fantastiche digitali che costano molto di più, però con una cifra tutto sommato abbordabile possiamo fare un bel regalo. Se invece ci vogliamo fare il regalo di Natale, cioè ci portiamo avanti, perché ti ricordo che è il 3 ottobre, ma dobbiamo già pensarci? Sì, dobbiamo già pensarci, perché come dico spesso, se noi entriamo in un negozio di tecnologia, usciamo con le idee confuse, perché c'è troppa offerta. Purtroppo ci sono molti commessi non hanno tempo di servirci. Ma magari tutti i commessi sono bravissimi. Magari adesso ne hanno un po' di più, perché poi sotto Natale molto meno ancora. Sì, è vero, però poi ci alla fine andiamo in questi negozi nei momenti di massimo affollamento, quindi poi c'è poco tempo. Quindi il consiglio è documentarsi per tempo prima di fare un acquisto e non acquistare prodotti di serie B, acquistare prodotti di serie A che costano magari qualche cosa in più, ma pensiamo che molti di questi prodotti dureranno anni, quindi poi se uno va a tradurre questa spesa anno per anno, ci sono persone che spendono 500, 600, 700 euro per uno smartphone che fra 2 anni è fra 6 mesi è vecchio. Certo. E insomma, se uno compra un altro tipo di prodotto che si mette in casa, potrebbe decidere di spendere qualche cosa in più. Di che cosa parliamo oggi? Di una nuova modalità con cui si possono vedere le immagini sul televisore, nuovi televisori che si chiamano OLED. OLED. Da non confondere con i LED. Mm-hmm. Allora, i LED sono i televisori che noi conosciamo oggi, LCD retroilluminati con una lampada LED. L'OLED è una categoria completamente nuova, ne parliamo perché hanno abbattuto un confine psicologico, una barriera psicologica dei 2000 euro e uno dice mamma mia 2000 euro sono un sacco di soldi, però anche qui se pensiamo che questa è una tecnologia nuova, è una tecnologia che è uscita da qualche anno, ma insomma non stiamo parlando ancora di grandi numeri, stiamo parlando di televisori molto importanti, e anche televisori che magari ci portiamo per 10 anni, ci teniamo per 10 anni o 15 anni, insomma è una spesa che potremmo anche cominciare ad affrontare, tenendo conto che siamo a ottobre, probabilmente per Natale vedremo prezzi ancora più bassi. A questo punto mi devi domandare. Allora, intanto cos'è questo OLED? No, non solo ti chiedo, ma allora, A, cos'è questo OLED? B, senti qua, perché comprarsi questo OLED? Cioè, perché? Allora, diciamo, se uno deve fare l'acquisto di un televisore, il consiglio è di comprare un OLED. Perché? Perché si vede molto meglio rispetto a qualsiasi altro televisore attualmente in commercio LED. Spiego molto semplicemente il motivo per cui si vede meglio. Uno può andare nei negozi e vederlo e lo capisce da solo. Sì, devo dirti però, che spesso nei negozi però invece di farci vedere la TV ci fanno vedere i DVD o addirittura i Blu-ray e sembra che tutto si veda benissimo. Invece secondo me dovrebbero farci vedere la TV normale. Il digitale terrestre, Infatti io a volte vado, chiedo, scusi, posso vedere il digitale terrestre? E non è collegato. Infatti potremmo fare una lunga chiacchierata sulla capacità dei negozi di andare incontro alle vere esigenze dei consumatori, ma questo è un altro capitolo. Allora, perché si vede meglio? Allora, i televisori di oggi sono tutti LED, quindi LCD retroilluminati con delle lampade LED che illuminano, fanno diciamo, cambiare i colori sul pannello. L'OLED invece è una tecnologia che permette al singolo pixel di accendersi e di spegnersi, quindi in modo molto preciso. Tenete conto che su un televisore ad alta definizione ci sono più di 2 milioni di pixel, quindi in questo modo, con questa tecnologia che è simile diciamo da questo punto di vista al plasma, ma ormai i plasma non vengono più prodotti, si sta passando all'OLED, quindi c'è una precisione incredibile, quindi il singolo pixel controlla l'emissione della luce e l'emissione del colore, quindi i colori sono sicuramente molto più precisi, molto più veri, molto più brillanti. E poi uno dei termini che spesso vengono utilizzati dagli esperti è il nero. Un'immagine nera nella realtà è nera, perché quando non c'è la luce nella realtà il nero è nero assoluto. Nel LED non è mai nero assoluto, perché non riesce a far spegnere tutto e rimane sempre una piccola patina di luminosità. Nell'OLED è nero, vero. Ah, fantastico. Quindi già questo è un una caratteristica che fa vincere l'OLED su qualsiasi altra tecnologia. Si vede benissimo, è meraviglioso, molto bello. Domanda tecnica per quanto riguarda invece, l'abbiamo detto molte volte, sta per arrivare Netflix, abbiamo la data, tu ne hai parlato in 2024, sì, vero? Sì, scaricate il podcast di 2024 e ne hai parlato diffusamente, però è arrivata la data 22 ottobre. Esattamente. Per il mio compleanno, sai? Davvero? Okay. Beh, forse sì, l'hanno fatta apposta. Perché pensa, doveva essere il 12? Poi l'hanno come spostato, la scoperta dell'America. Poi hanno detto: no, ma che giorno compie gli anni? Era 22. E allora. Potrebbe essere questa la motivazione, sì. Sì, sì, secondo me sì. Si vede Netflix? La domanda è: chi avesse un televisore un po' vecchiotto, allora, saranno compatibili? Perché allora, se c'è da cambiare, già lo compriamo OLED, sì, e ci hai detto OLED, e tanto tutti i televisori moderni sono compatibili, no? Che siano OLED o non OLED, se sono smart TV, che quindi possono essere connessi a internet, bla bla bla, 90 su 100 possono guardare, sì, Netflix. Allora, prima cosa necessaria, avere internet. Certo. Perché e questo non è detto che tutte le famiglie abbiano internet in casa. Avere internet che si possa collegare col televisore. Certo, possiamo anche collegarlo col wifi, però io preferisco sempre che il cavo si infili dentro il televisore, siamo più tranquilli, più sicuri, non ci sono interferenze. Ci sono palazzi dove ci sono decine di wifi e a volte ci sono delle interferenze. Io tra ti confesso wifi che ce l'ho collegato col wifi al televisore. Vabbè, se funziona va bene. Sì, cioè, per ora sì, vedremo sempre, poi con Netflix anche questo. No, ma funzionerà sicuramente, non richiede una banda incredibile. Sì, allora, diciamo, la caratteristica che i televisori devono avere, se sono molto vecchi ci sarà qualche difficoltà. Se sono smart TV, che quindi hanno una serie di applicazioni, è molto probabile che anche per il televisore di qualche anno fa ci sia l'applicazione Netflix, che quindi posso installare sul televisore. Quasi tutti i televisori smart TV hanno la possibilità di andare su uno store, quindi per scaricare le applicazioni, quindi se quella è la condizione ci sarà l'applicazione per Netflix. Te lo dirò se il mio televisore, che ormai ha 4 anni. Ma io penso di sì. Faremo la prova. Poi è un televisore di marca, allora anche qui chiaramente le marche principali si adopereranno e si stanno già adoperando per far sì che si possa vedere. Allora, c'è una soluzione, ci sono anche delle offerte con dei decoder esterni che devono sempre essere collegati a internet, e in questo caso alcune di queste offerte, penso ad esempio alla TeamVision ingloba Netflix, quindi se uno ha anche un vecchio televisore col tubo catodico, ammesso che lo riesca a collegare però senza esagerare, in quel caso uno utilizza il decoder esterno di TeamVision e integrato nell'offerta di TeamVision ci sarà Netflix. Questo o è uno dei tanti accordi che sono videogiochi, fatto. Ho letto le console dei videogiochi anche potrebbe essere una soluzione. Io sono sempre per le soluzioni semplici, cioè se so tutto nel televisore faccio prima, è più comodo, comando tutto col telecomando. Ci sono dei televisori che addirittura hanno il telecomando Netflix. Non sono molti in Italia, ma penso che ne vedremo di più. Negli Stati Uniti ci sono moltissimi televisori, visto che Netflix è un fenomeno molto popolare negli Stati Uniti, ci sono dei televisori col tasto Netflix, così uno entra addirittura. Poi quando uscirà Netflix spiegheremo e diremo che non c'è solo Netflix in questo mondo, certo, dello streaming. Ormai TV, ci sono... questa è la notizia, perché per anni sì, abbiamo detto sì, arriva e poi stiamo a vedere anche che cosa c'è dentro. Ah sì, i primi anni non ci sarà niente di particolarmente scoppiettante, perché sappiamo che Netflix stessa, che produce contenuti tipo Orange is the New Black e House of questo Cards, questo non lo sapevo, uno è su Sky e uno su House Medias of Cards. Mediaset. Ciò c'ha una domanda. dopo rispondiamo. Abbiamo i nostri colleghi in studio che fanno tra scherzi e domande al conduttore. Si divertono un po', perché c'è un clima, ma siamo al mare. Qui al Salone Nautico è molto divertente, sì. Però allora... volevo dire, allora, la barriera psicologica dei 2000 euro è stata superata da un OLED. Allora, per il momento li produce solo LG, che ha creduto moltissimo in questa tecnologia. Io sono contento che ci sia qualcuno che crede in questa tecnologia, gli altri ci stanno lavorando e quest'altro anno usciranno poi anche gli altri produttori. La barriera dei 2000 euro l'ha superato un 55 pollici, uno potrebbe dire ma no, 55 pollici davvero non ci sta in casa 55. No, il oggi 50 o 55 è ormai da considerare un televisore normale. Ma devo allontanare tantissimo il divano, non so se ci sta il mio non divano tantissimo, no, non tantissimo, ma... diciamo che a spanne dovresti guardarlo a grosso modo 2,5 volte la la larghezza del televisore, quindi non da tantissimo. Infatti, se poi uno in casa ha un 50 pollici, dopo un po' si rende conto che effettivamente è normale. Allora, io ci penso durante la pausa per il traffico, torniamo sì. tra poco anche perché c'è l'app della settimana. L'hai preparata l'app della settimana? Sì, sì, ho due o tre proposte, cioè okay. ne ho una pensata, okay, cioè, però, allora... però poi introduco un dibattito che magari bene, porteremo avanti per settimane. Bene. Tra poco ancora con Enrico Pagliarini al Sabato del Villaggio. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Vi presenta il Sabato del Villaggio. Navighiamo, navighiamo, Enrico. Tra l'altro stavo leggendo prima su io in gran parte non mi posso permettere, però posso sognare. I molti anfibi che sono dei veri problem solver, esibizionisti inarrestabili. Io mi taglio la pagina, poi se trovo qualcuno che mi porta magari in Polinesia con questo motoscafo. No, ma perché la Polinesia è qualche pagina prima. Io preferisco francamente lo yacht, cioè, con l'elicottero che ti porta dove devi andare. Perché devi fare questa cosa mista anfibio? Hai ragione, vabbè, dopo mi strappo la pagina di Autospendit per sognare un po'. Sì. Enrico, te lo regaliamo, allora... cioè, puoi prendere tutto senza strappare la pagina. Prendere tutta la rivista. Allora, l'app della settimana, dai, visto, svelaci. Ne cito due, o meglio, ne cito l'app e poi una categoria. La prima è solo perché ha la barca, visto che siamo al Salone Nautico, pensiamo anche a quelli che hanno la barca. Una delle esigenze per chi ha la barca è trovare posto barca quando si è d'estate in giro per... allora, il servizio si chiama Marina Now, è una specie di Booking Expedia per le barche, quindi io devo prenotare il posto barca e prenotare magari tutta una serie di servizi per la barca nelle marine non solo italiane ma anche del Mediterraneo. Allora, se io mi iscrivo a questo servizio, che posso utilizzare anche via web, ma esiste l'app, quindi magari sono sulla barca, posso prenotare il mio posto barca direttamente senza chiamare, spedire documenti, eccetera eccetera. Marina Now, bello, iOS, stavo guardando, e Android. E questo è il consiglio della settimana per chi ha una barca o per chi è appassionato, può provare questo servizio. Invece la categoria che volevo introdurre, e qui magari raccogliamo anche le preferenze dei nostri ascoltatori per le prossime settimane, adesso se noi guardiamo il cielo c'è un diciamo che minaccia pioggia da questa parte, però da quest'altra parte dipende dove sereno, uno guarda, insomma, sappiamo che una delle applicazioni, una categoria tra le categorie più scaricate sugli smartphone sono le app per le previsioni meteo. Io devo dirti che prima di avere uno smartphone non guardavo mai il meteo. Adesso da quando ho uno smartphone sono sempre lì a controllare. Certo, anche perché poi ci sono, tu puoi attivare le notifiche che ti dicono attento che nei prossimi 15 minuti potrebbe venire a piovere, a poi che ci prendano non è mica sempre. Allora, secondo il mio modesto parere, però qui poi raccogliamo i consigli anche degli nostri ascoltatori, siccome Yahoo Meteo è la più bella. Ah, tu a me piace sai per moltissimo. Yahoo, ma poi ti dico qual è la mia preferita. Perché c'è anche un po' di fantasia, di romanticismo, perché non ti fa vedere solo la previsione meteo, ma c'è una bella foto di sottofondo, come sfondo, legata alla città per la quale tu chiedi le previsioni. Tipo io stamattina, prima di partire da Milano per venire a Genova, ho consultato il meteo. E c'è questa fotografia e aggiornando cambia la fotografia, prelevandole da Netflix. Netflix sappiamo che è nel circuito di Yahoo, che ha milioni di fotografie di tutto il mondo, e quindi mettendo in collegamento queste fotografie con questa applicazione, uno vede anche le foto del luogo dove magari deve andare. Ecco, e mi sembra una bella carina. E poi le previsioni mi sembrano abbastanza azzeccate, però non, ecco, queste non le ho controllate, no, certo, non è che tutti certo. i giorni vedo, controllo se ci beccano e ci prendono. Io sono abituata a AccuWeather, perché trovo AccuWeather, americano? Sì, americano, sì, mi consigli anche se posso fare il barbecue all'aperto, sì. cosa che non farei comunque, ma mi diverte molto. Sì. Però un'altra app carina, non so se l'hai mai vista, questa la consiglio io a te. Per chi usa Instagram, c'è un'app che si chiama InstaWeather e tu puoi, che oltre, collega le due sì, cose. Puoi fare, mettere il meteo sulla tua foto e che così segnali anche. Che è una bella idea. Io non uso Instagram. Sì, ecco. Però. Allora, Enrico, ricordiamo l'appuntamento con il podcast di 2024 e con 2024 On Air. Allora, abbiamo parlato di Netflix, abbiamo parlato, pensa, di software per le automobili. Visto tutto quello che sta succedendo, abbiamo fatto la domanda: ma qual è il ruolo del software? Praticamente puoi far anche ribaltare un'automobile via software. Allora, podcast radio24.it, c'è 2024, invece con te ancora il prossimo sabato il villaggio. Ah, domani io sono qui in diretta alle 13.30. Sì, allora, sì. Chi è qui domani al Salone Nautico 13.30 trova ancora Enrico Pagliarini. Noi adesso invece parliamo di cinema. Grazie, ciao. L'ho chiamata patatina praticamente dal primo istante in cui l'ho vista. Perché non lo scrivesse di noi? Su noi due. Sì. Mia figlia è un genio. Padri e figlie, il nuovo film attesissimo di Gabriele Muccino, ma chissà se vale la pena andarlo a vedere? Beh, lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora andiamo a vederlo questo nuovo film di Muccino? Sì, ciao Marta, sì, andiamo a vederlo, soprattutto se ci piace emozionarci al cinema, se ci piace magari piangere anche un pochino. Quindi questo è un melodramma, diciamo così, con attori straordinari, perché Russell Crowe è bravissimo in questo film, così come Amanda Seyfried, che recita il ruolo di sua figlia da grande, e ci sono due piani narrativi temporali diversi nel film, e questo rapporto fra un padre e una figlia matura piano piano durante il film, cresce piano piano, così come l'emozione, senza mai uscire, diciamo, di diventare melenso, e trovo che sia la più bella prova di regia di un Muccino, che dimostra di essere ormai degno e capace di domare la grande bestia del cinema hollywoodiano. C'è un altro film che mi incuriosisce molto, Straight Outta Compton. Non capisco, è un film musicale? Di cosa si tratta, Franco? Ma guarda, è una cosa molto interessante. Straight Outta Compton è un film che invece è poco universale, cioè piacerà sicuramente a chi ama il rap, piacerà sicuramente a chi ha vissuto in maniera molto viscerale quei fatti a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, che misero a soqquadro e misero a ferro e fuoco i quartieri periferici di Los Angeles. Se ricordate il pestaggio di Rodney King, le manifestazioni di indignazione per come poi fu portata avanti la causa giudiziaria contro i poliziotti che avevano selvaggiamente picchiato quel cittadino di colore americano. Ebbene, in quella Los Angeles dei giovani piccoli criminali, piccoli spacciatori di droga, piano piano capiscono che quella ribellione, quella rabbia deve essere veicolata dalla musica. C'è chi è molto capace a fare rime, c'è chi è molto capace a fare ritmo, e nascono NWA, che diventano un successo assolutamente mondiale. Dentro ci sono nomi come quelli di Ice Cube, come quelli di Dr. Dre, come quelli di Eazy-E, che sono nell'ambito del rap degli assoluti campioni. Ecco, questa è la storia che racconta Straight Outta Compton, la racconta con una regia molto funzionale che, diciamo, non va molto oltre, non aggiunge molto al film. Però se siete interessati a quel ragionamento, a quel racconto di quell'America, è sicuramente un film che può andare bene. Franco, ancora due brevissimi flash, perché voglio sapere di Io e Lei e poi del nuovo film di Ridley Scott, The Martian. Assolutamente Marta, una settimana molto ricca, due flash al volo. Io e Lei è un film che pesca in una storia tutta all'italiana di due donne che scoprono la loro, diciamo, omosessualità chi prima, chi dopo, ma la vivono in maniera consapevole in età molto molto adulta. Per una è una certezza, per un'altra è una scoperta, una è una bravissima Sabrina Ferilli, l'altra è un'altrettanto brava Margherita Bui, dirige Vanessa Tognazzi, un film veramente anomalo per il panorama italiano, ha dentro qualche spruzzatina di Thelma & Louise insieme a tante altre suggestioni, però un film assolutamente bello e interessante da vedere. Ridley Scott torna alla fantascienza, quella lì classica, diciamo, no? L'uomo, i grandi spazi, siamo su Marte, un componente di una spedizione rimane isolato dopo una tempesta e deve cavarsela da solo per trovare la strada del ritorno. È un po' Gravity, diciamo, senza la poeticità di Cuarón, ma con proprio l'impatto visivo di una fantascienza che è molto anni 70 e che è quella che poi è piaciuta tanto in quegli anni. Avevamo un po' perso per strada con tutta questa distopia che si era impadronita del genere. Ecco, Ridley Scott torna su quello e lo fa piuttosto bene. Allora Franco, appuntamento con te dopo il GR24 delle 18 con La Rosa Purpurea e insieme ancora sabato prossimo. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli del fine settimana, questo fine settimana da Genova, dal Salone Nautico di Genova. Nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellani, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Qui da Genova, i libri del momento. Questa volta Alessandra Tedesco ci parla di Bagagli leggeri, scopriremo insieme perché. Poi torna un mito della nostra infanzia e si prepara a conquistare anche i bambini di oggi. Arrivano al cinema i Peanuts, insomma Snoopy e Charlie Brown. E poi un personaggio che con una scelta clamorosa da qualche giorno è sulla bocca di tutti. Ma prima parliamo di musica. C'è chi ama la sua terra e i suoi confini ed è così patriottico che sogna una patria senza vicini, e se i figli possono nascere lo stesso anche da due che si odiano, dimmi allora cosa serve l'amore, l'amore, l'amore. Lo sai questa parola che effetto che mi fa, detta pianoforte, detta ad un'altra velocità, può anche uccidere, può anche darmi la felicità, detta con un altro suono oppure con un'altra età, due ragazzi che si amano e chissà se siamo ancora così stupidi. È uscito il 2 ottobre Pop Up, il nuovo album di inediti di Luca Carboni, dopo il successo di Fisico e Politico, ma soprattutto dopo il successo di quest'estate di Questa Luca è lo stesso, che in questi giorni è alla vetta dell'airplay, cioè della classifica dell'ascolto radiofonico. Noi l'abbiamo incontrato qualche giorno fa, era davvero emozionatissimo. Gli abbiamo parlato appena dopo la presentazione alla stampa di questo bellissimo Pop Up e ci ha raccontato proprio la sua grande, grandissima emozione. Luca Carboni. Ma io sono sempre molto emozionato in questi momenti e a ogni presentazione, anche perché insomma praticamente è da 2 anni da quando ho presentato l'altro che non parlavo in pubblico, quindi insomma sono un po', e poi niente, c'è l'emozione di portare un lavoro nuovo, una storia nuova e vedere se questa cosa viene recepita, viene ritenuta importante come lo è per me, quindi insomma è chiaro che è un momento molto speciale. Però io non avevo mai visto in una conferenza stampa tante persone che chiedevano l'autografo sul disco, la fotografia. Senti l'affetto? Sì, quello lo sento molto. E poi da quando è uscito Luca lo stesso, che ormai è anticipato già da... è già un mese, mi sembra circa, che fuori, veramente anche per la strada, tutti, si è come riaccesa un affetto nuovo, molto, molto bello, insomma, no, lo sento, quello lo sento, l'ho sempre sentito, ho avuto sempre la fortuna di seguire il mio istinto nelle mie scelte, nella musica, nei dischi, ho fatto anche dischi più difficili, questo credo che sia un disco invece molto più diretto, che non ha barriere per arrivare alla gente, se la gente lo vuole accogliere. Però ho sempre avuto e sentito stima nei miei confronti, e questo mi ha sempre dato molta energia, anche da parte di chi non mi seguiva più di tanto, però ho sempre sentito questo affetto e rispetto. Subito non sei davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle è così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegare. E questa è Bologna è una regola, un'altra delle tracce, io ve lo consiglio personalmente, è un album bellissimo, Pop Up di Luca Carboni, una canzone sulla magia e l'inquietudine di Bologna, che è la sua città che permea tante canzoni di questo album. Una delle cose molto belle che ha detto Luca Carboni di questo album, di questo punto della sua vita, della sua carriera, è stata: ho avuto successo per 20 anni con canzoni che non parlavano d'amore, ma ho capito alla mia età che la cosa importante è imparare a scrivere d'amore, perché è il punto d'arrivo, bisogna imparare a scrivere e parlare d'amore. Sì, mi piace l'idea, insomma io ho 53 anni e mi rendo conto che sono ancora qua a scrivere canzoni d'amore, a dargli un peso, a ritenere che siano importanti, a ritenere che possano contribuire alla nostra felicità e quindi e anche alla nostra forza, non solo di me che le scrivo, che se le pubblica perché ci credo, ma anche spero che siano importanti per la gente. A questo proposito, tu scrivi e canti, spesso mi chiedo perché sto a raccontare i cazzi miei alla gente, però una delle cose più belle di questo lavoro, del tuo un po' anche del mio, è che la gente abbia ancora voglia di starli a sentire. Ah, assolutamente, sì. Beh, questa è una frase così, quasi un po' provocatoria, però è perché in effetti ci sono anche i momenti in cui vai anche... ti chiedi perché lo fai, perché magari vai in crisi, perché magari ti senti meno forte di un altro momento, meno... Quindi, insomma, questa è una canzone proprio sul... tutta la canzone Milano è proprio sul cercare di capire quello che siamo, quello che dobbiamo fare, quello che potremmo fare, e anche magari per non avere rimpianti di non aver fatto delle scelte anche estreme magari. Al mondo se non lo cambierò, alle grandi certezze per i dubbi che ho, al primo grande amore a cui non penso più, a tutte le altre donne perché mi piaci tu. del mare, ai grandi deserti che non vado a annaffiare, per le contraddizioni che non riesco a evitare, chiedo scusa a voi. No, non seguo la scia, cerco sempre un'idea, prego in una chiesa ma anche in una moschea, ogni uomo è in balia, ogni donna è una dea, prima di cominciare mi inchino alla platea. E questa è la mia personale preferita di Pop Up di Luca Carboni, Chiedo Scusa, che è ispirata a una poesia della poetessa polacca Wisława Szymborska e che gioca molto con una sonorità anni 90 e si ispira molto alle canzoni anni 90 di Lucio Dalla. Gioca molto col passato Luca Carboni in questo Pop Up, gioca con gli anni 80, gioca con gli anni 90, insomma Luca Carboni adesso piace giocare con il passato. Ma a me giocare mi piace, quindi più passa il tempo e più ho del passato con cui giocare e lo utilizzo, anche perché mi piace l'idea di avere sempre con me il bambino che sono e insomma ogni tanto dialogare, no? E quindi far vincere lui o vincere io, insomma, a seconda delle volte. Mi piace dare spazio, cioè se, mai in una chiave nostalgica o malinconica o di nostalgia, ma mi piace che il passato possa entrare anche a dare consigli al presente o riaffiorare. Il sabato del villaggio. Sempre in diretta dal Salone Nautico di Genova, non sta piovendo, continua a reggere il tempo, non sta piovendo, è grigino, ma finalmente regge il tempo a Genova al Salone Nautico. Siamo qui per il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è, lo sapete, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, piaceri della vita e libri. Quanto è pesante la vostra vita? Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle. Cercate di sentire le cinghie sulle vostre spalle. Le sentite? Ora dovete riempirlo con tutte le cose che avete nella vita. Cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali, nei cassetti, i gingilli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso. Questo è quello che noi facciamo quotidianamente, ci appesantiamo a tal punto da non riuscire a muoverci, e state pur certi, il movimento è vita. Questo film, questo Tra le nuvole, Up in the Air, c'era questo insegnamento fondamentale, lo zainetto che noi tendiamo sempre a riempire troppo. Io tendo sempre a fare delle valigie troppo pesanti quando vado in vacanza. Chissà Alessandra Tedesco, ciao Alessandra, tu come le fai le valigie, pesanti come le mie? Esageri, guarda, o sei diventata brava? Io le faccio compatte ma pesanti, scusate per la voce da Orsetto Bubu, ma sono in collegamento dal divano di casa mia, appunto per il mal di gola e la tosse che mi ha impedito di venire a Genova. Guarda, è proprio un peccato perché noi ci stiamo divertendo molto, ma curati perché sentiamo che la voce, sentiamo che la voce è un po' raffreddatina. Alessandra, ma perché bagagli, zainetti, perché dobbiamo stare leggeri? Perché? Perché parliamo in realtà dei bagagli della vita, non parliamo del bagaglio che ci portiamo quando appunto dobbiamo fare un viaggio, ma del bagaglio, dello zaino che abbiamo addosso sulle nostre spalle, la nostra vita. E il libro di Gabriele Romagnoli, che si intitola Solo bagaglio a mano, pubblicato da Feltrinelli. Io devo dire, ho incontrato Romagnoli qualche giorno fa, infatti l'intervista andrà in onda questa sera nel Cacciatore di Libri alle ore 22, sono rimasta, sai quando rimani incantata nell'ascoltare una persona che ti parla? parla, mi era già piaciuto il libro naturalmente e ancor di più le chiacchiere che abbiamo fatto insieme. Lui parte da un concetto, allora, nella Corea del Sud per l'alto tasso di suicidi c'è una società che si è inventata una strategia per far apprezzare la vita alle persone: inventano il tuo finto funerale, ti fanno fare un finto testamento e poi ti infilano veramente in una cassa da morto per qualche minuto, e nel tuo fare, come dire, il tuo finto testamento ti rendi conto di quali sono le cose materiali a cui tieni di più, ma soprattutto quali sono le persone e gli affetti a cui tieni di più. Da questa idea è venuto fuori il libro di Romagnoli, Solo bagagli a mano, per capire che cosa è veramente importante nella vita. E non è un caso il film di George Clooney, perché lui stesso nell'intervista ci ha già dichiarato che ha pensato proprio a quel film cercando di capire che cosa veramente vale la pena nella vita portare addosso. Lui si libererebbe anche dei ricordi del passato, io sono una più nostalgica in questo senso, Marta. Allora sentiamo che cosa ci ha dichiarato Romagnoli. Il problema è che tutti vogliamo tenere tutto, no? Le persone hanno una specie di feticismo della memoria, sì, no? Per le cui fotografie, le fotografie, i diari, i libri. Allora, un esempio che faccio spesso è: c'è una coppia che ha questa scatola in cui, dalla quale estraggono questi memorabilia incredibili, e uno ti fa vedere un biglietto di un cinema in cui sono stati una sera a Londra, all'uscita hanno visto i fuochi d'artificio, lei mi ha detto per la prima volta ti amo. Allora, la mia domanda è: senza il biglietto ti dimenticheresti di una cosa del genere? Ce ne hai bisogno? E seconda domanda: la vostra relazione è una scatola di ricordi o una fabbrica di ricordi? Cioè, molto spesso i ricordi sono un modo per rivivere come se non fossimo in grado invece di vivere domani. Allora, io invece di pensare a quella sera con i fuochi d'artificio a Londra, penso a cosa possiamo fare domani perché sia altrettanto indimenticabile. Alessandra, a chi consigliamo questo Solo bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli? Allora, io lo consiglio veramente a tutti quelli che hanno bisogno in questo particolare momento della vita di capire a che cosa tengono di più, che vogliono fare un po' i conti. Chi sta per fare un compleanno, per esempio, chi sta facendo il bilancio della propria vita. Solo bagaglio a mano è veramente, secondo me, un libro che ti può illuminare. Bello, mi piace molto. Consigli Alessandra, altri libri che ci consigli questo fine settimana? Allora, ho scelto tutti i libri abbastanza brevi, quello di Gabriele Romagnoli intorno alle 100 pagine, quello di Camilla Baresani, Gli sbaffatori, pubblicato da Mondadori, supera di poco le 100 pagine. Ho pensato un po' a tutte quelle persone che normalmente mi scrivono: ma io non ho tempo di leggere e quindi magari leggo delle sciocchezze. No, si possono leggere libri brevi ma intensi e di qualità. Allora, questo libro di Camilla Baresani mi ha fatto sghignazzare, cioè non solo ridere o sorridere, ma proprio sghignazzare, perché lei racconta con la sua veramente ironia, anche col suo sarcasmo, il mondo del food e del wine, come si dice adesso, o meglio il mondo dei giornalisti e dei food blogger che lavorano appunto in questo campo, e sono gli sbaffatori, quelli che vanno normalmente a fare questa tre giorni dove mangiano a sbaffo di tutto, vengono ospitati negli alberghi prestigiosi, bevono vini prestigiosissimi, insomma campano a sbaffo. C'è anche una specie di storia d'amore, perché la food blogger Rosa si innamora di Guido Baldo, critico gastronomico d'eccellenza, ma mi sa che per lui non è proprio la stessa cosa, diciamo che per lui è un rapporto molto più fisico, banale e non intenso come quello che pensa Rosa. Quindi veramente Camilla Baresani, Gli sbaffatori, sghignazzerete, e vi assicuro che il mondo dei giornalisti purtroppo in parte è anche fatto di scrocconi. E sai che stavo pensando, che ho voglia di leggerlo perché ho l'impressione di conoscerne qualcuno, chissà, magari troverò qualche tra le righe qualcuno che assomiglia a qualcuno che conosco. Allora, intanto questo era un consiglio per me, perché mi divertirò molto a leggerlo. Allora, è un consiglio per te, io lo consiglio anche al nostro gastronauta, perché secondo me si divertirà moltissimo. Secondo me anche lui, anzi, lui chissà quanti ne troverà. E lo consiglio a tutti quelli che hanno un po' piene le scatole di tutto questo parlare di cibo, vino. Camilla Baresani tra l'altro ne scrive di cibo e di vino, quindi vi assicuro che quello che lei racconta in questo libro è assolutamente vero, però è un modo per prendere un po' in giro la categoria dei giornalisti gastronomici. Mi hai raccontato anche di un altro piccolo libricino, però, che vale la pena consigliare, Alessandra. Sì, guarda, ho iniziato a leggerlo oggi verso l'una, ho iniziato a twittare, sto leggendo appunto Miracolo in libreria, scritto da Stefano Piedimonte, pubblicato da Guanda. È un racconto lungo, sono meno di 100 pagine. Stefano Piedimonte è uno scrittore che è già intervenuto diverse volte a Radio 24, perché è uno scrittore che mi piace molto, ha scritto romanzi come Nel nome dello zio, Voglio solo ammazzarti, L'assassino non sa scrivere, quindi nella sezione Il cacciatore di libri trovate le sue vecchie interviste. Questo è un libro un po' diverso dagli altri, c'è molto meno ironia e c'è più malinconia. È un libro spiazzante e affascinante perché è diviso in due parti. La prima parte c'è un libraio che è costretto ormai a togliere dalla vetrina, come dire, i libri che lui ama per mettere best seller, perché deve a forza vendere. A proposito, Marta, hai finito di leggere Mr. Grey? No, guarda, sono un po', cioè vado un po' a rilento perché non è proprio che mi stia appassionando tantissimo questo Grey. Vai, un'altra cosa. Cioè, non è che proprio mi stia divertendo tanto, quindi però ti prometto che appena l'avrò finito ti racconterò cosa ne penso. Bene, io ne penso male. Allora, questo libraio è costretto appunto a togliere dalla vetrina finché un giorno una ragazza affascinante sembra, almeno apparentemente, rubare l'unico libro di cui ci sono poche copie in Italia, ma che di cui questo libraio è innamorato. Poi all'improvviso si cambia registro. Seconda parte di questo racconto è, come dire, un estratto di questo libro che al libraio piaceva tanto e che ha a che fare con l'amicizia e anche con il senso della vita, si ricollega in qualche modo anche al libro di Romagnoli. Io veramente ve lo consiglio a tutti quelli che amano i libri, naturalmente, che amano leggere e che hanno voglia di trovare il senso delle cose in un libro che, ripeto, è spiazzante e affascinante allo stesso tempo. Che meraviglia. Alessandra, abbiamo un minuto, uno, anzi due, dai, esageriamo, due minuti. So che hai un ultimo consiglio da brivido, non so, per chi sì, ama... Sì, perché... da brivido, nel senso che il libro di cui si sta parlando in questo momento, Miracolo in libreria, parla di libri, e l'ultimo romanzo di Stephen King, Chi perde paga, pubblicato da Sterling e Kupfer, in questo caso le pagine sono tante, più di 450, parla dell'ossessione di un lettore per il suo scrittore preferito, che però non pubblica alcun libro da 20 anni, e quindi lui si vuole vendicare. Fa parte di una trilogia, la prima era Mr. Mercedes, Chi perde paga, appunto, il detective è sempre Bill Hodges. Naturalmente il modo in cui cerca di vendicarsi questo lettore non è proprio dei più delicati. Beh, posso immaginare, cara Alessandra, quindi immagino che lo consiglieremo agli appassionati di questo scrittore, che sono talmente tanti. Agli appassionati di Stephen King assolutamente, okay. Non alle fifone come me. Esatto, nemmeno alle fifone come me. Alessandra, appuntamento col cacciatore di libri. Stasera alle 22 con il mitico Gabriele Romagnoli di cui abbiamo parlato prima. Mi raccomando, tu miele, latte caldo, e il prossimo sabato ti vogliamo in forma, va bene? Ormai Alessandra? Sono un orso, mi sto trasformando in un orso a furia di miele. Dai, a prestissimo Alessandra, grazie Alessandra Tedesco per essere stata con noi in diretta dal suo divano sotto la copertina. A presto Alessandra. Grazie a tutti, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco ancora con il sabato del villaggio dal Salone di Genova. Il sabato del villaggio. E noi parliamo sempre di quello di cui si parla tanto, si parlerà tanto, tutte le indicazioni per sapere tutto quello che si deve sapere dei temi del momento, i consigli per gli acquisti mentali e tutto quello che serve sapere delle grandi tendenze adesso nei consumi mentali qui al Sabato del Villaggio. Intanto vi ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666, ma anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, mi trovate senza problemi, cancelletto ISDV e l'hashtag per interagire con me, che oggi sono qui al Salone Nautico di Genova e saremo insieme fino alle 18, perché ho già visto passeggiare qua attorno Daniele Bellasio, è arrivato anche lui per la puntata di RadioTube. Adesso però andiamo a incontrare degli amici, lo abbiamo detto, ci hanno tenuto tanto compagnia quando noi eravamo più piccini, ma prepariamoci perché presto impazziranno anche i bambini di oggi. Per chi? Ma per loro. Stavolta le cose andranno diversamente. C'è la ragazzina nuova. Wow, è bella. Non è così bella. Oh. Mi ha guardato. Un cane ti ama per quello che sei. È bello quando qualcuno ti ascolta. Il 5 novembre, secondo le ultime indicazioni, questo film, forse avete capito che era un trailer da un film di animazione e che il bambino e il cane non possono che essere Charlie Brown e Snoopy. Snoopy and Friends, il film dei Peanuts. Allora, noi che abbiamo più di qualche annetto, avevamo gli astucci, i diari, gli zaini dei Peanuts, di Snoopy, di Woodstock, di Charlie Brown. Preparatevi voi che avete figli, perché presto i vostri figli vi chiederanno lo zainetto, l'astuccio, il quaderno di Snoopy come un tempo, perché sta per tornare tantissimo di moda. Allora, il 5 novembre arriva il film dei Peanuts, Snoopy and Friends in italiano, ma per chi volesse già portarsi avanti, segnatevi questo appuntamento, 17 ottobre, manca pochissimo, un luogo a Milano che io amo particolarmente ed è Wow Spazio Fumetto, e abbiamo il curatore delle mostre di Wow Spazio Fumetto insieme a noi, Luca Pertuzzi. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Allora Luca, ti abbiamo chiamato perché abbiamo detto 17 ottobre, spero sia questa la data giusta, esatto. Una mostra, il fantastico mondo dei Peanuts in mostra, quindi compiono 65 anni, 2 ottobre 1950, mi sono segnata la data, stanno per tornare, esatto, di modi, stanno per essere di nuovo, rinverdire i loro fasti, Luca, sarà così sicuramente? Sì, sicuramente, anche se forse non sono nemmeno mai passate di moda, forse perché magari sono meno conosciuti dai giovanissimi di oggi, ma appunto tutto il pubblico che l'ha conosciuti nei decenni passati avrà un'occasione in più per rincontrarli al cinema o nella nostra mostra magari. Che cosa mettete in mostra? Perché le vostre mostre, io l'ho detto, sono di parte, sono pazza del Wow Spazio Fumetto. Grazie. Di Milano. Che cosa mettete in mostra? Che cosa ci farete scoprire dei Peanuts, che appunto noi sentiamo come nostri amici e parenti da sempre? Beh, diciamo appunto tutto il loro mondo, come dice il titolo della mostra, quindi il percorso si svilupperà diciamo in due modi, quindi parlando dei vari personaggi di Peanuts che verranno presentati attraverso delle statue a grandezza naturale dei vari protagonisti, quindi di Charlie Brown, di Snoopy, Schroeder, Lucy e tutti gli altri, Linus eccetera, e attraverso tantissime strisce tutte da leggere, quindi per poter rivedere le battute che più abbiamo amato e che permetteranno di raccontare anche come questi personaggi si sono evoluti nel tempo e diciamo i loro aspetti della personalità che più ricordiamo, non so, dalla gag della palla da football che tutte le volte viene levata al povero Charlie Brown, piuttosto che la cabina da psicologa di Lucy o gli infiniti travestimenti di Snoopy, che poi proprio per questo forse è diventato il personaggio un po' più amato di tutti quelli dei Peanuts. Peanuts che tra l'altro è un titolo che Schultz non amava particolarmente, ma che poi è diventato amatissimo da lettori di tutto il mondo, tant'è che i Peanuts sono stati pubblicati su migliaia di giornali ovunque e ancora adesso a 15 anni dalla scomparsa di Charles Schultz, dalla fine della striscia che si è chiusa ovviamente quando lui era troppo diciamo non poteva più produrla, e sono arrivati fino a noi, appunto l'ultimo passaggio è questo nuovissimo film che si preannuncia sicuramente un grande successo, dedicato a Snoopy e ai Peanuts. Quindi ci sarà appunto questo percorso dedicato ai vari personaggi, un approfondimenti su Schultz, su come la figura di Schultz e la sua vita abbia influenzato i fumetti, per esempio il fatto che Charlie Brown abbia un padre barbiere esattamente come Schultz, senza contare il fatto che Charlie Brown si chiama Charlie come Schultz si chiamava Charles, quindi diciamo che i punti di contatto fra l'opera e il suo creatore sono diversi. E poi parleremo, ovviamente affiancheremo a queste strisce tutta una quantità di oggettistica vecchia e nuova, libri provenienti un po' da varie parti del mondo per testimoniare quanto i Peanuts sono amati non solo negli Stati Uniti, non solo in Italia, dove sono diventati poi famosi soprattutto dal 65 con l'uscita del mensile Linus, a cui tra l'altro abbiamo dedicato una mostra pochi mesi fa, ma anche ci sarà la possibilità di vedere alcune rarissime strisce originali, tavole originali disegnate da Schultz, che quindi non ce ne sono tantissime a disposizione in Italia, quindi oltre a poter leggere le strisce diciamo riprodotte, sarà possibile proprio vedere il tratto dell'autore attraverso la sua opera originale. Poi, come da nostra abitudine, ci saranno delle installazioni multimediali che permetteranno di vedere ad esempio come le specie dei Peanuts si sono trasformate in cartoni animati o ripercorrere i rapporti tra i vari personaggi, perché il bello dei Peanuts forse sta anche, oltre appunto alle gag meravigliose che ci ricordiamo, anche nel cast di personaggi, nel rapporti che li legano tra loro, e che quindi, visto che il cast è piuttosto nutrito nel corso degli anni, abbiamo pensato di raccontare tramite questa installazione multimediale. Poi, come da nostra abitudine, ci sarà una cuccia di Snoopy ricostruita a grandezza naturale. No, che meraviglia, la cuccia di Snoopy a grandezza naturale, io subito voglio, ma ci si può entrare, ci può entrare, si con può Snoopy, no? Si può sbirciare dentro, diciamo che è a grandezza canina. No, perché io vorrei volare sopra il tettuccio della cuccia col Barone Rosso. Certo. Vorrei partire con lui, se si può. Al Barone Rosso, tra l'altro, sarà dedicato un angolo della mostra, perché un altro appunto spunto della nostra mostra sarà per raccontare questo mondo. Abbiamo pensato di affidarci non a degli esperti dei vari aspetti che caratterizzano la serie, quindi il fatto che Snoopy sia uno scrittore, ci sarà in mostra un pezzo scritto da uno scrittore che racconta com'è l'incubo della pagina bianca che Snoopy ha spesso e che lui cerca di interrompere, iniziando sempre con "era una notte buia e tempestosa". Certo, ci saranno aperti, certo, su come sono i bracchetti e i beagle rispetto a Snoopy. Ci saranno pezzi sulla coperta di Linus scritti da una psicologa, che quindi diciamo che abbiamo pensato di affidare a degli esperti dei vari settori tutti i temi che sono stati i temi forti che sono stati toccati dai Peanuts e che hanno contribuito a renderli così famosi. Per esempio, Luca, appunto, ma qual è il tuo preferito in assoluto? Ah, Snoopy. Perché credo. C'è qualcuno cioè tu ti identifichi un po' in Snoopy? No, per caso mi affascina, sì. un po' mi affascina molto la sua capacità di immedesimarsi in centinaia di personaggi diversi. Infatti, ovviamente, nella mostra ci sarà anche uno spazio tutto dedicato a una parte dell'identità di Snoopy, perché sono centinaia, quindi non abbiamo potuto metterle tutte, avremmo dovuto fare una mostra solo per quello, ma ci saranno ovviamente le più famose, più alcune di quelle meno conosciute, perché Snoopy è così fantasioso che magari in una striscia si trasforma in un animale piuttosto che nel celebre avvocato o in un campione di hockey, per poi magari cambiare ancora identità tre o quattro strisce dopo. Quindi è un vero trasformista. Io sono uguale a Piperita Patti, cioè il mio alter ego è assolutamente Piperita Patti, ma proprio sono perfettamente sovrapponibile a Piperita Patti, non so se è un buon segno però. Luca, allora, io voglio ricordare il fantastico mondo dei Peanuts in mostra dal 17 ottobre al 10 gennaio, quindi ce ne sarà di tempo per chi vuole venire a Milano al Museo del Fumetto, Wow Spazio Fumetto, se qualcuno volesse andare a vederlo online, Museo Wow .it è il vostro sito. L'appuntamento quindi 17 ottobre, magari ci andiamo a vedere la mostra prima di prepararci all'uscita del film. Sì, in modo Peanuts, che così Luca, ripassiamo tutti i personaggi, perché ovviamente abbiamo anche dedicato un angolo a quelli magari meno conosciuti, perché oltre a quelli che tutti ricordiamo, nel corso di 50 anni di storia ovviamente ne sono arrivati anche tantissimi che si sono visti poco o che sono poi spariti perché Schultz aveva altri progetti per loro. mentre fantastico. Altri magari sono partiti, sono arrivati a un certo punto come Piperita Patti che citavi, poi sono rimasti sempre nel cast perché sono dei personaggi così belli e ricchi che insomma creavano, davano l'idea per tantissimi spunti al nostro autore. Grazie, grazie Luca Bertuzzi, curatore mostre Wow, grazie Spazio Fumetto di Milano. A presto, ti veniamo a trovare allora allo Wow. Grazie, grazie Luca. Noi adesso parliamo però di un altro personaggio molto amato dai bimbi di oggi, di ieri e anche dell'altro ieri. Io ve lo faccio sentire in svariate lingue e sono sicura che ci metterete un secondo a riconoscere di chi stiamo parlando. What was that book you were looking at when I came in? Oh, my book. My mama gave it to me for my birthday. But Eddie, I don't understand it. Buenos días, señor. Non sei, signor, sei ratone. Mamma, cosa mi dici? Dici mai. Ciao Gigio, come stai? Ciao Mago, come stai? Io bene, sto bene. Bene anch'io. Tutto sale, sale, tutto sale. Son salite anche le nebbole. Nebbole. Tutto è scuro, scuro. Si cammina con le fiaccole. Fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le giri di coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma sta pazzami di coccole, coccole. E questo è un regalo che io mi sono fatta personalmente. È uscita la sua autobiografia, è la mamma di Topo Gigio, Io e Topo Gigio. È uscita qualche giorno fa questa autobiografia per Marsilio. La signora Maria Perego è una signora di 92 anni che però ha uno spirito, un'energia, una voce che fa capire che assolutamente non ha la sua età. La mamma di Topo Gigio è una donna che lavora ancora tantissimo, che ha ancora tantissime idee, che ha ancora voglia di parlare del successo del suo bimbo, del suo Topo Gigio. Noi l'abbiamo incontrata, Maria Perego, che ci ha raccontato così. Sì, sono stata una delle prime a fare la TV dei ragazzi. Sono andata con le fotografie di Don Berlempin e Belisa nel suo giardino di García Lorca. Pugliese le ha guardate tutte la rovescia. Io ero spaventata, terrorizzata, dico chi mi manda via. Invece ha detto belle e mi ha assunto. Dunque da questo ho dedotto che aveva proprio bisogno di gente, perché sennò guardando delle fotografie alla rovescia non me l'avrebbe mai preso. Gigio l'ha portata in tutto il mondo e lei ha portato in tutto il mondo Gigio. Ma cosa aveva di speciale perché potesse piacere in Giappone, negli Stati Uniti, in Argentina? Il suo movimento è una delle tante avventure che ho avuto nella mia mente, che ho giocato nella mia mente. È stato una delle vie che ho percorso, il movimento. Il movimento mi ha dato Gigio, che è un personaggio diverso dalle marionette, diverso dai burattini, che però ha attinto dalle marionette, dai burattini, dalla tradizione, che si porta dietro la cultura del marionettista, però si è adeguato ai nuovi mezzi, lo schermo televisivo che non vuole cartapesta, cioè visi rugosi, tagli intorno alla bocca, ma vuole un viso levigato. L'altro è un movimento più scattante che lo porta a muoversi per la scena, a far dire alla gente sembra quasi vero. A me piace molto il quasi, perché non lo è. Topo Gigio è attuale? Topo Gigio è attuale, è un personaggio attuale, tanto è vero che su Facebook ha 5 milioni di mi piace, perciò è più amato di così, ma nel presente. Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nebbole, nebbole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le ciribiri coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole. coccole, coccole. Beh, questo era Topo Gigio, la mamma di Topo Gigio. Io avrei ascoltato Strapazzami di coccole ancora per un po', ma è il momento di dare la linea agli aggiornamenti sul traffico e poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta il Sabato del Villaggio. Lei è il personaggio di cui da un paio di giorni stanno parlando tutti. Il video che la riguarda è su tutte le homepage di tutti i giornali online. Hanno davvero parlato tutti di lei per questa cosa che è successa l'altra sera a X Factor. Eccola qua. Scusate, non me la sento. No, cosa stai facendo? Cosa vuol dire? Credo che lui sia stato più bravo e... Non mi posso togliere il cappello. Mi tolgo la parrucca per te. Allora, a X Factor lei ha deciso di rinunciare a un passo dal traguardo. Si era, diciamo, qualificata per arrivare alla fase successiva rispetto alle selezioni, che era quella del bootcamp. Le hanno detto: Sara, ok, sei dentro. E l'avete sentito, lei ha detto Marco è stato più bravo di me, io rifiuto, non voglio prendere il posto di una persona che credo sia stata più brava di me. Io sono rimasta molto colpita da questa ragazza, davvero, della quale adesso parlano tutti, e noi ce l'abbiamo al telefono. Sara Loreni, Sara, ci sei? Ciao. Ma te l'aspettavi che avresti fatto parlare tutti di te, di quello che hai fatto X Factor, Sara? Sinceramente no. No, non me l'aspettavo per niente. Beh, è stata però una mossa. Che cosa ti è passato per la testa in quel momento? Perché lo sai che alcuni hanno detto l'ha fatto apposta. A me invece sei sembrata davvero sincera. Cioè non mi è sembrato che tu potessi calcolare, no, mi ritiro perché così poi parlano di me. Tu mi sei sembrata davvero sincera. No, non sono mai stata brava a dire le bugie. E questo purtroppo a volte nella vita si paga, però in questo caso ammirevole. Che cosa ti è passato per la testa? Ma in quel momento non mi è passato per la testa praticamente niente. C'è stato un grandissimo cortocircuito e secondo me Marco non era la persona giusta con cui fare lo switch. E così ho deciso di fare un passo indietro. Perché chi non avesse visto la scena, tu avresti dovuto prendere il posto fisicamente su una sedia che ti avrebbe, esatto, che avrebbe contraddistinto il fatto che avresti passato il turno a posto di questo ragazzo. E tu hai detto no, deve rimanere Marco. Lui cosa ti ha detto dopo? Perché credo che nessuno se l'aspetti un passo del genere da parte, possiamo dire, di un'avversaria, perché di fatto in quel momento eri un'avversaria. Sì, certo, anche se appena prima di salire sul palco avevamo cantato nei camerini Across the Universe armonizzata a due voci, quindi in realtà è molto strano quello che si vive in quel momento su quel palco. Sara, noi abbiamo un po' di cose che tu hai fatto, io chiedo alla regia se ci manda qualcosa di Sara Loreni, così poi ci spieghi che tipo di musica fai e adesso cosa succederà per te. Sentiamo un po'. Quando ti metti quel maglione marrone, poi lo togli e son paura di sapone. Mi piace quando indossi fra gli sguardi il migliore. Se mi guardi mi viene il batticuore. Mi piacciono poi le mani eloquenti che conoscono linguaggi differenti. Poi ci sarebbe una cosa che non potrei dire mai. Piace assai, Sara, che usa intanto la Loop Station e in tanti ti hanno visto e hanno detto: ma che cosa fa? Cioè, che tecnicamente tu come ti esibisci? Ma allora, con la Loop Station, che fondamentalmente è un campionatore di suoni, e registro la mia voce e parti della mia voce che poi vengono mandate da questa loop machine in loop, appunto, vengono ripetute e poi sovraincido delle parti, tutto questo dal vivo, e che vanno a creare una sorta di base sulla quale poi canto. Questo quando utilizzo solo la station. In realtà adesso per presentare il nuovo disco che si chiama Menta abbiamo implementato il live set, siamo in tre sul palco e oltre alla loop station ci sono anche dei sintetizzatori, il basso e una batteria ibrida. Beh, straordinario. Sara, hai citato il tuo disco Menta col TH, è così? Esatto, Menta col TH. Primo disco e anche già un primo tour, perché ti si potrà vedere in giro, non hai perso tempo, diciamo che... Quando è successa questa cosa che noi abbiamo visto giovedì scorso X Factor? È passato qualche mese però? Sì, è successo il tutto tra giugno e luglio. Quindi insomma c'è stato il tempo invece per dedicarti al tuo lavoro dopo quell'episodio. Ecco, quindi adesso disco e tour. Disco e tour, sì, finalmente. Sì, perché è un po', diciamo, la parte più divertente, più bella, quella in cui poi si incontra il pubblico, si va nei club e si presenta il proprio lavoro. Io ne vedo tanti, 4 novembre Grosseto, 5 novembre San Benedetto, poi Bologna, Massa Carrara, Milano e Legnano, li ho letti giusti. Saraloreni.it sì. È il tuo sito. Sara, adesso che cosa ti aspetti, che cosa ti auguri, quali sono i tuoi obiettivi più vicini? Ma gli obiettivi più vicini sono senz'altro quello di fare un bel tour, perché... le date sono in aumento, le aggiorneremo sui vari social, pagina Facebook e chiaramente anche il sito, e spero di poter di portare un nuovo lavoro appunto, e poi sicuramente ci sarà, non vedo l'ora di cominciare a lavorare anche su questi nuovi. Che brava, grazie Sara per essere stata con noi, grazie a Sara Loreni. Quindi saraloreni.it è il tuo sito per sapere tutto quello che è successo dopo quel fatto clamoroso di X Factor del quale stanno parlando tutti. Grazie Sara per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Allora, noi concludiamo qui solo il sabato del villaggio, però, perché adesso siamo pronti, lo facciamo tutti i sabati, ci cambiamo d'abito, sta anche diventando un po' buio qui a Genova, qui al Salone Nautico, perché siamo pronti per la terza ora del sabato del villaggio, che è quella di RadioTube, ma tra poco dopo il giornale radio delle 17:00.